Le cinque figlie della grammatologa di Eleanor Aronson, traduzione di Tiziana Mancinelli. C'era una volta una grammatologa che viveva in una città magnifica ormai scomparsa e che quindi non ha bisogno di essere nominata. Nonostante fosse istruita e ingegnosa e avesse una casa piena di libri, la sua situazione economica non era prospera. A rendere peggiore la situazione, aveva cinque figlie. Suo marito, un diligente studioso che non aveva la testa per gli affari, morì subito dopo la nascita della quinta figlia. Così la grammatologa dovette crescerle da sola. Fu davvero difficile, ma riuscì a dare a ognuna di loro un'educazione adeguata. Tuttavia, offrire loro una dote, essenziale secondo la cultura di appartenenza della grammatologa, le fu impossibile. Le sue figlie non avrebbero avuto alcuna chance di sposarsi. Sarebbero diventate delle vecchie signorine sbarcando, pensava la madre, un misero lunario come scribacchini al mercato della città. La grammatologa si preoccupò e si crucciò finché la figlia maggiore raggiunse i 15 anni. Allora la figlia andò dalla madre e disse: «Non puoi mantenere sia me che le mie sorelle. Dammi ciò che puoi e andrò via cercando fortuna. Non importa cosa accadrà, tu avrai una bocca in meno da sfamare». La madre ci pensò su e poi preparò una borsa. Qui ci sono i sostantivi, che considero la solida e preziosa base del linguaggio. Li do a te, perché sei la maggiore. Prendili e usali come meglio credi. La figlia maggiore ringraziò la madre, baciò le sorelle e si incamminò con la borsa piena di sostantivi sulle spalle. Trascorse del tempo. Viaggiò il più possibile fino ad arrivare in un paese pieno di nebbia. Tutto era confuso e incerto. La figlia maggiore vagò a lungo senza sapere dove stesse andando, quando arrivò in un luogo pieno di ombre che sembravano case. Una voce esile e distante le urlò: «Oyez, il re di questa terra darà suo figlio o sua figlia a chiunque sappia disperdere questa nebbia». La sorella maggiore ci pensò su e poi aprì la borsa. Vennero fuori i sostantivi arguti e precisi. Cielo saltò fuori e cacciò il grigiore. Sole saltò fuori e illuminò il cielo. Erba si sparse sul terreno soffice e grigio. Quercia, olmo e pioppo spuntarono dall'erba. Seguì casa insieme a città, castello e re. Ora, nella luce del sole, la sorella riuscì a vedere le persone attorno a lei. Tessendo le lodi, l'accompagnarono al castello dove il re, colmo di gratitudine, le diede il figlio maggiore. Si sposarono, ovviamente, e vissero felici, mettendo al mondo figli arguti e precisi. Durante il loro regno, al paese fu dato un nuovo nome, Cositudine. Divenne famoso per i cieli luminosi, i paesaggi vivaci e per i cittadini sicuri e acuti che amavano tutto ciò che potevano toccare e tenere. Ora la storia passa alla seconda figlia. Si recò, come sua sorella, dalla grammatologa e le disse: «Non puoi mantenere noi quattro. Dammi ciò che puoi e andrò a cercare fortuna. Non importa cosa accadrà, avrai una bocca in meno da sfamare». La madre ci pensò su, poi riempì una borsa. «Questa contiene verbi, che considero la forza del linguaggio. Te li dono perché sei la seconda delle mie figlie, la più impavida e audace. Prendili e usali come meglio credi». La figlia ringraziò la madre, baciò le sorelle, poi si incamminò con la borsa piena di verbi sulle spalle. La seconda figlia, come la sorella maggiore, camminò il più possibile, raggiungendo finalmente un paese tanto caldo da squagliarsi. Il sole risplendeva nel mezzo di un cielo polveroso e di un tedioso azzurro. Tutto quello che vedeva attorno a sé sembrava sopraffatto dalla pigrizia. Le api, in genere, le più laboriose delle creature, troppo stordite per volare alla ricerca del polline, si riposavano nei loro alveari. I contadini dormivano sui loro aratri. Anche i buoi davanti agli aratri sonnecchiavano. Nelle piccole città commerciali i commercianti sedevano nei loro negozi, troppo stanchi per urlare e vendere la loro merce. La seconda figlia continuò a camminare arrancando. La borsa si faceva sempre più pesante e il sole le sbatteva sulla testa tanto che poteva a malapena muoversi o pensare. Alla fine, in una piazza della città, le passò vicino un uomo con la giubba ricamata con l'araldo reale. L'uomo si sedette sul bordo della fontana del villaggio, con una mano nell'acqua. Quando si avvicinò, lui si destò per un po', ma era troppo stanco per alzare la testa. «Oi!» disse infine, bisbigliando lentamente. «La regina di questo paese darà un figlio in matrimonio a chiunque interrompa questo torpore». La seconda figlia ci pensò su, poi aprì la borsa. Camminare, saltò fuori, poi fu il turno di girovagare e cavalcare, correre, saltare e volare. Come le ape, i verbi ronzarono per tutto il paese. Le api si svegliarono in risposta, e così anche gli uccelli, i contadini, i buoi, le casalinghe e i commercianti. In ogni città i cani cominciarono ad abbaiare. Solo i gatti stavano raggomitolati su se stessi, decidendo quando dormire e quando svegliarsi. Soffiare soffiò dalla borsa e poi raffica. Le bandiere del paese sventolarono. Come un vento freddo del nord o una tempesta elettrica, i verbi fischiavano e crepitavano. La figlia, stupefatta, tenne la borsa aperta finché l'ultimo verbo uscì fuori lentamente e se ne andò via. Tutta la gente del paese le danzò attorno. La regina del paese arrivò su un cammello da corsa bianco latte. «Scegli uno dei miei figli, ti sei guadagnata un compagno regale». La famiglia reale si dispose di fronte a lei, ragazzi affascinanti e ragazze dolcissime, tutti smaniosi e tremolanti per l'influenza causata dai verbi. La seconda figlia si accorse che solo una ragazza alta rimaneva ferma, seppure con un grande sforzo, mentre gli altri figli avevano occhi di cerbiatto o cammello, gli occhi della ragazza, sebbene scuri, erano entusiasti. La figlia della grammatologa si girò verso di lei. La ragazza disse: «Mi hanno incoronata principessa, sposami e sarai la consorte di una regina. Se vuoi figli, uno dei miei fratelli dormirà con te. Se saremo fortunate, avremo una figlia a governare al mio posto quando non ci sarò più. Qualunque cosa accada, ti amerò sempre per aver salvato il mio paese dall'inerzia». La figlia della grammatologa scelse ovviamente la principessa. Esausti dalla stanchezza e irrequieti da tutti quei verbi, gli abitanti di quel paese divennero nomadi. Cavalcavano cavalli e scortavano mandrie di bestiame dalle grandi corna su una pianura polverosa. La seconda figlia partorì i suoi figli sui carri e li vide crescere in groppa ai cavalli. Visse felicemente, con grande vitalità, sempre accanto alla sua sposa, la regina nomade. Il paese che governarono, che non aveva una capitale e dei confini certi, divenne noto come Cambiamento. Ora la storia torna nuovamente alla grammatologa. Ormai anche la terza figlia aveva raggiunto il 15° anno di età. «La casa è abbastanza spaziosa da quando le altre sorelle se ne sono andate», disse la madre, «e abbiamo quasi cibo sufficiente per tutte. Ma per me non c'è nessuna ragione di stare qui, quando loro sono andate a cercare fortuna altrove. Dammi ciò che puoi e me ne andrò lungo la via principale. Non importa cosa accadrà, tu avrai una bocca in meno da sfamare». «Tu sei la più dolce e la più elegante fra le mie figlie», disse la grammatologa, «perciò ti darò gli aggettivi. Prendile e fanne ciò che puoi. Possano la fortuna e la bellezza essere sempre con te». La figlia ringraziò la madre, baciò le sorelle e si incamminò con la borsa di aggettivi sulle spalle. Portare quel carico non fu proprio facile. C'erano da una parte parole rosee e delicate che non pesavano molto e svolazzavano. Dall'altra parte parole simili a pietre, che giacevano tenebrose, feroci e temibili. Sembrava che non ci fosse un vero e proprio equilibrio per una simile collezione. La figlia cercò di fare del suo meglio, camminando faticosamente con il coraggio di una donna, fino a quando arrivò in una terra deserta. Il giorno arrivò all'improvviso, un sole bianco sbucò in un cielo senza nuvole. La luce intensa sbiadiva i colori della terra. C'era poca acqua. La gente del posto viveva in grotte e in canyon per ripararsi dal sole. «Le nostre vite sono come pietre brulle», dissero la terza figlia della grammatologa. «Con un'alternanza improvvisa di un giorno splendente e una notte completamente nera. Siamo troppo poveri per avere un re o una regina, ma offriremo la persona più rispettata, il nostro sciamano, come sposo a chiunque possa migliorare la nostra situazione». La terza figlia ci pensò su. Poi slegò la sua borsa ingombrante, la pose sul terreno asciutto e l'aprì. Volarono fuori roseo e delicato come farfalle, seguì raffinato come una falena. «Il nostro paese non sarà più desolato», gridarono con gioia. «Avremo l'alba e il crepuscolo, di cui abbiamo sempre sentito parlare». Gli aggettivi uscivano uno dopo l'altro: ricco, fine, bello, lussureggiante. Quest'ultimo assomigliava a un granchio ricoperto da una vegetazione ispida. Mentre avanzava verso il terreno duro, fece cadere delle piante dal dorso, o forse gli spuntarono attorno, tanto da lasciare un sentiero tutto verde. La borsa era quasi vuota, tranne che per le parole spiacevoli. Quando Viscido allungò il tentacolo, la terza figlia tirò subito stretta la cordicella di chiusura. Viscido urlò di dolore. Nella parte inferiore della borsa, gli aggettivi peggiori brontolavano: sleale, ingiusta. Lo sciamano, una persona alta e affascinante, stava lì vicino, provando i diversi aggettivi. Era particolarmente interessato al maschile, femminile e neutro androgino. Non riesco a decidermi, disse lo sciamano. Questo è il lato oscuro della nostra nuova condizione. Prima avevamo delle scelte chiare, ora la nuova complessità mette tutto in dubbio. Il suono degli aggettivi che si lamentavano attirò lo sciamano. Lui, lei o esso andò a esaminare la borsa, che aveva ancora un tentacolo sporgente e che si agitava. Questo è sbagliato. Chiedevamo la fine della desolazione, che non è come chiedere la carineria. E là, al fondo della borsa, ci sono parole che un giorno potrebbero essere necessarie, sublime, grandioso, magnifico e così via. Aprila e lasciala venire fuori. Ne sei certo? Chiese la terza figlia. Sì, rispose lo sciamano. Così aprì la borsa. Uscirono fuori lentamente Viscido e altre parole altrettanto disgustose. Lo sciamano annuì, con approvazione, mentre comparivano uno dopo l'altro gli aggettivi più sgradevoli. Ultimo fra tutti, dopo cupo, spaventoso e terribile, apparve sublime. La parola brillava come un diamante o come un nuvolone da temporale colpito dai raggi del sole. Vedi, disse lo sciamano, non valeva la pena quello che è rimasto? Tu sei un essere santo, disse la figlia, e conosci cose che io ignoro. Sublime si incamminò verso le montagne. La terza figlia arrotolò la sua borsa. È uscito tutto, disse, interamente svuotata. La gente si guardò intorno. La loro terra era ancora un deserto, ma ora le nuvole attraversavano il cielo, facendo cambiare la luce del sole sui promontori e gli altipiani. In tutta risposta i colori del deserto diventavano raffinati e variegati. La pioggia cadde sulle montagne, dando vita a una nebbia, alimentando limpidi rigagnoli che correvano sul fondo del canyon. La vegetazione, seminata dal granchio lussureggiante e alimentata dai ruscelli, dava una dozzina, due dozzine, di tonalità differenti di verde. La nostra terra è stupenda, gridarono, e tu sposerai il nostro sciamano. Ma lo sciamano stava ancora provando gli aggettivi, incapace di decidere se lei, lui o esso volevano essere femminile, maschile o androgino. Non posso sposare qualcuno che ha le idee così confuse, disse la terza figlia. La sottigliezza è una cosa, l'incertezza è un'altra. In quel caso, le dissero, diventerai la nostra prima regina. Lo sciamano diventerà il tuo primo ministro. Così fu. Nel tempo la terza figlia sposò un giovane cacciatore. Ebbero vari figli, tutti diversi in maniera sottile. La terra prosperava, anche se non era mai fertile, tranne che nel profondo del canyon. Ma la gente era in grado di cavarsela. Apprezzavano i colori dell'alba e del crepuscolo, il movimento della luce sugli altopiani, lo scintillio dell'acqua che scorre sulle pietre, il bagliore degli insetti e il volo degli uccelli, il vagabondare lento delle pecore sulla collina, come nuvole sotto le nuvole. Raffinatezza fu il nome di questo paese. Si trovava a nord di costitudine e di cositudine e a ovest di cambiamento. Nella loro casa natale, nella città senza nome, la quarta figlia della grammatologa raggiunse la maggiore età. Ognuna di noi ha una stanza, disse alla madre, e c'è molto da mangiare, ma io e mia sorella non abbiamo ancora la dote. Non voglio diventare una vecchia signorina al mercato. Ho intenzione di andare via come hanno fatto le mie sorelle maggiori. Dammi quello che puoi e farò del mio meglio. Se faccio fortuna, te la invierò. La madre pensò per un po' e frugò nel suo studio, che era quasi vuoto. Aveva venduto i suoi libri anni prima per pagare l'educazione delle figlie e la maggior parte delle parole preziose erano già andate via. Alla fine riuscì a riempire una borsa con gli avverbi, anche se erano piccole creature dispettose che provavano a scappare. Ma una buona grammatologa può essere più furba di qualsiasi parola. Diede alla quarta figlia una borsa che stava quasi per scoppiare. Questo è ciò che mi è rimasto, spero possa esserti utile. La figlia ringraziò la madre, baciò la sorella minore e si affrettò verso la strada principale, con la borsa di avverbi saltellanti sulle spalle. Il viaggio fu molto lungo. Tirò fuori le sue doti da donna essendo la più energica delle cinque figlie e quella più ottimista di spirito. Mentre camminava, rapidamente, lentamente, costantemente, uniformemente, la borsa continuava a saltellare e a squittire sulle spalle. «Cosa c'è lì dentro?» gli chiesero altri viaggiatori. «Topi?» «Avverbi», disse la quarta figlia. «Non hanno un gran mercato», dissero gli altri viaggiatori. «Sarebbe meglio avere dei topi». Questo era chiaramente falso, ma la quarta figlia non si mise a discutere. Se ne andò finché le si ruppero le scarpe e le scivolarono dai piedi stanchi. Si sedette su una pietra posta al lato della strada principale, massaggiandosi la pianta del piede, mentre al suo fianco la borsa continuava a squittire. Un ragazzo di bell'aspetto, con un vestito colorato, le si parò davanti. «Cosa c'è in quella borsa?» chiese. «Avverbi», gli rispose rapida la figlia. «Allora devi andare, come sto facendo anch'io, alla fiera del linguaggio nuovo». La figlia lo guardò, sorpresa, notando in quel momento le gote rosse e i riccioli dorati del ragazzo. «Come?» chiese interessata. «Vengo dal paese della raffinatezza e sul cavallo ho una scatola piena di aggettivi. Ogni colore possibile, disposti in cassetti: acquamarina, ruggine, grigio, magenta, color pulce, li ho tutti. Le tue scarpe sono logore. Sono logore. Sali su, ti porto fino alla fiera». La quarta sorella accettò e il bel ragazzo, il cui nome era Ruggine, cavalcò fino a destinazione. Lì, tra le bancarelle con tende sgargianti, parolai e commercianti, mostravano le loro mercanzie: sostantivi validi, verbi vigorosi, aggettivi acuti. Ma mancavano gli avverbi. «Hai portato proprio il prodotto giusto», disse Ruggine con invidia. «Cosa ne diresti di fare una bancarella insieme? Posso prendere delle gabbie per i tuoi avverbi, sono chiaramente piccoli amici dispettosi. E tu puoi aiutarmi a organizzare i miei colori in modo migliore». La quarta sorella accettò, disposero una bancarella. Davanti c'erano le gabbie per gli avverbi, che squittivano e saltellavano tutti, eccetto quelli afatici. Gli aggettivi del ragazzo furono appesi alla tenda, agitati da un vento mite. Quando i clienti arrivarono, attirati dagli avverbi, Ruggine disse: «Come possiamo avere il cielo senza il blu? Come possiamo avere l'oro senza luccicante? E quanto può essere utile un verbo se non può essere modificato? Ci basta camminare senza lentamente o rapidamente? Comprate, comprate! Abbiamo minacciosamente e rabbiosamente, consapevolmente e amorevolmente e anche un bel assortimento di aggettivi. Tornate a case felici con una mezza dozzina di colori e una gabbia piena di avverbi». Gli avverbi andarono via come frittelle e anche la vendita degli aggettivi non fu male. Alla fine della fiera, Ruggine e la quarta figlia erano ricchi, nonostante fossero rimasti ancora parecchi avverbi. «Devono essersi moltiplicati, anche se non l'avevo notato prima», disse Ruggine. «Cosa ne farai?» «Lasciamoli andare», disse la figlia. «Perché?» chiese Ruggine bruscamente. «Ho abbastanza soldi per mantenere me, mia madre e la mia sorella minore. Avido è un aggettivo, non una delle mie mercanzie». Aprì le gabbie. Gli avverbi corsero liberamente, lentamente, velocemente, scattosamente, felicemente. Nella terra spaziata attorno alla fiera, gli avverbi proliferavano. La regione divenne nota come Varietà. Molta gente ogni anno andava a godersi il tempo veloce, rinvigorente e multiforme, oltre che la fiera, che da quel momento in poi ebbe luogo tutti gli anni. Quanto alla quarta figlia, si costruì una casa molto bella su una collina sopra la fiera. Il panorama si estendeva per chilometri. Sul retro, fra i cespugli, dispose delle mangiatoie per gli avverbi e mandò a chiamare la madre e la sorella rimasta a casa. Le tre vissero insieme felicemente. La quarta figlia non sposò Ruggine, sebbene gli fosse sempre riconoscente per l'aiuto. Divenne un'anziana signorina. «La vita è bella, se hai soldi e rispetto», diceva. Con il tempo, la quinta figlia raggiunse la maggiore età. Era molto più giovane delle altre. Sua sorella le offrì una dote, ma lei replicò: «Non voglio fare meno di quanto abbiano fatto le altre. Lascia che mia madre mi dia quello che le è rimasto e andrò a cercare fortuna». La madre andò nel suo studio, ora pieno di libri nuovi, e si guardò intorno. «Ho una nuova collezione di nomi», disse la figlia minore. «No, li ha presi mia sorella maggiore e da quanto ne sappiamo le è andato tutto bene, ma non voglio ripetere l'esperienza di qualcun altro». «I verbi erano troppo vivaci», disse alla madre, «e gli aggettivi troppo e arguti. Sono una persona semplice che ama l'ordine e l'organizzazione». «Che ne dici degli avverbi?» chiese la madre. «Non c'è nient'altro?» «Preposizioni», disse la madre, mostrandole alla figlia. «Erano paroline noiose, come pezzette di ferro che può fare un fabbro. Alcuni piegati in angoli, altri curvati in ganci. Altri ancora erano cerchi ed eliche». Qualcosa in loro toccò il cuore della figlia minore. «Le prendo», disse, e le mise in una borsa. «Per Poi ringraziò la madre, baciò la sorella e partì. Nonostante fossero piccole, le preposizioni erano pesanti e avevano angoli affilati. Alla figlia minore non faceva piacere trasportarle, ma essendo una persona metodica, avrebbe fatto ciò che aveva deciso. Cammina, cammina, si inoltrò lungo la strada principale che si interrompeva in un paese distrutto, pieno di fessure e vette frastagliate. La geologia locale era altrettanto caotica. Rocce ignee si inserivano in strati sedimentari. La roccia nuova giaceva sotto quella più antica. La figlia minore, che amava l'ordine, non aveva mai visto una tale confusione. Non soltanto era ordinata, ma anche molto razionale, e si rese conto di non poter sistemare un'intera catena montuosa. Sia quel che sia, disse, ciò che mi preoccupa è la mia vita e quella di altre persone. La strada divenne più tortuosa e dissestata. I sentieri biforcavano, talvolta si ricongiungevano o terminavano in vicoli ciechi, come scoprì la figlia dopo alcuni tentativi. Questo paese ha bisogno di ingegneri, borbottò scontrosamente. Alcuni avverbi si erano nascosti fra le proposizioni e salterellavano fuori di tanto in tanto. Scontrosamente era uno di questi. Per lungo tempo la strada non fu altro che un sentiero che zigzagava lungo un pendio scosceso. Sotto, in una valle, c'era una città di baracche. Anche se città potrebbe essere la parola sbagliata. Le baracche erano sparpagliate sui lati della valle, dal basso verso l'alto. Nulla era appropriato, organizzato. Stringendo le labbra, un gesto che faceva spesso sua madre quando si trovava di fronte a una frase che non si faceva analizzare, la quinta figlia scese giù per il sentiero. Quando raggiunse il fondo della valle, vide della gente che correva avanti e indietro. Che pazzia, disse la figlia. Le preposizioni nella borsa espressero il loro accordo con dei suoni, come uno scampanellio di metallo. Di fronte a lei due donne cominciarono a discutere. Non riusciva a capire di cosa. Spiegatemi, gridò la quinta figlia, mentre le preposizioni facevano bong e bing. Qui, nel cantone del caos, non siamo in grado di trovare un accordo, disse una delle due donne. Conta più l'età o la bellezza? È nato prima l'uovo o la gallina? La ragione è dei più forti. E se così fosse, cosa ci rimane? Questa è certamente follia, disse la figlia. Come possiamo non essere d'accordo? Disse la seconda donna. Viviamo capovolti e alla rinfusa, senza speranza di avere niente di meglio. Detto questo, colpì la prima donna sulla testa con un pollo vivo. Uova! Gridò la prima donna. Sinistra! Gridò la seconda. Il pollo starnazzò e l'ultima figlia della grammatologa aprì la borsa. Vennero fuori le proposizioni: di, da, con, a, per, sotto, sopra e così via. Quando le aveva messe nella borsa, le sembravano ganci o angoli. Ora, partendo in righe ordinate, le ricordavano le formiche. Di certo erano grandi formiche, ognuna delle dimensioni della mano di una donna, i loro corpi grigio metallizzato, gli occhi come l'ematite lucidata e tagliata. Dalle loro bocche sporgevano un paio di tenaglie o pinze. Le gambe sottili si muovevano delicatamente sul terreno come se fossero di acciaio o fil di ferro. In qualche modo, quasi come una sorta di magia, dove passavano loro si creava l'ordine. Le baracche si trasformarono in cottage ordinati, percorsi tortuosi divennero strade, i campi si fecero regolari, gli alberi si disposero in linea lungo le vie e le strade, apparirono terrazze sui versanti delle montagne. Le montagne rimasero folli come prima, con strati laterali e sottosopra. C'è sempre un limite all'ordine, disse la figlia. Ai suoi piedi, una manciata di preposizioni avanzate rispose, facendo risuonare il proprio consenso come fossero campane. In gruppi contegnosi, la gente del posto si avvicinò alla figlia. Ci hai salvato dalla completa confusione. Siamo una repubblica, per cui non possiamo offrirti un trono, ma per favore diventa il nostro sindaco, e se vuoi sposarti, accetta uno di noi. Qualunque cosa tu faccia, non andare via. A meno che tu non voglia lasciarci queste creaturine ingegnose che ci hanno unito gli uni con gli altri. Rimarrò, disse la quinta figlia, e aprirò una scuola di grammatica. Per quanto riguarda il matrimonio, lascerò che accada quel che accada. I cittadini accettarono il suo piano, si stabilì in un cottage e aprì una scuola ordinata, dove i bambini potevano apprendere la grammatica. Nel corso degli anni si sposò con altri quattro insegnanti, a causa della presenza delle preposizioni che rimasero nella valle a lungo tutte le montagne, la gente del luogo sviluppò una certa abilità per la creazione di gruppi sociali complessi. I loro diagrammi di affinità destavano lo stupore dei vicini e nacquero matrimoni sempre più intricati con il passare delle generazioni. Questo luogo divenne noto come Relazione. Oltre ai genealogisti e agli agenti matrimoniali, diede vita a molti diplomatici e mercanti. Questi ultimi due gruppi, attraverso il commercio e la negoziazione, gradualmente unificarono i cinque paesi di cosiddetta cambiamento, raffinatezza, varietà e relazione. L'impero che formavano fu chiamato Cooperazione. Nessun posto era più solido, più forte, più complesso, più energico o meglio organizzato. La bandiera della nuova nazione era una formica sotto un sole giallo brillante. A volte la creatura teneva uno strumento, una cesoia, una falce, un martello, una spatola o una penna. Altre volte le sue mani o piedi erano vuote. Sotto c'era sempre il motto della nazione, Con. Eleanor Arnason è una scrittrice americana. I suoi racconti sono stati pubblicati su diverse riviste, fra le quali New Worlds, The Magazine of Fantasy Science Fiction e Asimov Science Fiction Magazine. La sua ultima raccolta di racconti è Big Mama Stories. È stata paragonata a Ursula Le Guin per le tematiche sociali e culturali affrontate nella sua opera. Arnason fu la prima a ricevere il James Tiptree Junior Award. Le sue opere di narrativa hanno inoltre vinto diversi premi come il Mito Poetic Award, lo Spectrum Award e lo Homer Award. In questa fiaba molto originale, una madre manda le sue cinque figlie alla conquista del mondo, ognuna a modo suo. Le cinque figlie della grammatologa fu pubblicato per la prima volta nel 1999 sulla rivista Realms of Fantasy. Wombat Wombat.